nanna dorma fie, e il topalga un sacco in spalla, e rampega in sulla noce. Prega la luna de me a falcia pa, frega la stella de vardande che il va, prega il sente de portame la ca. In spalla che le piede tanti rob, il cadente il suo coraggio, il cadente la sua paura, e i parol che il pomme ha di. Sogni tu un sacco in spalla per rampegare tre al topà. In questa vita che vivo un destro, in questa vita che sogno un destro, in questa notte che prego un destro. Prega il Signore a bassa luz, con la sua pistola a forma di il signor a bassa voce con la sua bricola a forma de cruz.